Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Ricordiamo il sito giordanobrunomi.wordpress.com. Per le vostre mail notiziario@giordanobruno@gmail.com. Per il calendario anticlericale 2022 info@siciliaribertaria.it. Ateismo vincerà. Il libero pensiero non ha nazione, anticlericalismo liberazione. Più case, meno chiese, più case, meno chiese. Iniziamo dalla rivista settimanale Left del 3 dicembre, in cui si parla di fine vita. Fine vita, il Parlamento è latitante. La decisione del Comitato Etico della Regione Marche di autorizzare il suicidio assistito di una persona tetraplegica da 11 anni ha ridato linfa al dibattito sul fine vita, ma il disegno di legge va a rilento. Il Vaticano si intromette con le sue crociate. Il centrodestra in commissione ha ottenuto l'obiezione di coscienza per il personale sanitario. E c'è anche una bellissima vignetta anticlericale di Vauro: giù le mani dai bambini, ma ce l'hanno con noi, ma che sono i soliti Novax. Il genocidio mascherato, a pagina 43, sempre di Left, 8 milioni di morti, torture, stupri e un'antica cultura cancellata. E questo è il lascito di Leopoldo II al Congo, sottomesso e dominato per quasi un secolo con l'aiuto dei missionari cattolici. Ora una commissione speciale ha fatto luce sulle responsabilità dei cattolici belgi. Passiamo a una mia ricerca su internet, su Wikipedia: Scipione Piattoli. Pochi lo conoscono, però fu un prete che ebbe il coraggio di abbandonare il sacerdozio. Nel 1807 Scipione Piattoli ritornò in Curlandia e lì infine si stabilì, abbandonando l'abito e sposando una delle dame della corte, sempre in Curlandia, lì vicino alla Lituania. Da il quotidiano nazionale del 10 dicembre, suicidio assistito, arriva il primo sì, una legge con sanatoria e obiezione. Nuovo disegno di legge, non sarà punibile chi ha agevolato la pratica di fine vita. Poi si parla di Eluana, di DJ Fabo e testamento biologico, eccetera. Su questa tematica segnalo il libro di Giuseppe Deiana di Milano, di origine sarda, La morte buona. È possibile l'eutanasia cristiana? La posizione di punta dei cattolici e dei protestanti in opposizione alla destra clericale. Su Rai Scuola del 13 dicembre si è parlato delle 5 grandi estinzioni di massa della storia del nostro martoriato pianeta Terra. Ora, se tutto è stato creato da Dio e se non si muove foglia che Dio non voglia, come dicono errando clamorosamente i cattolici, allora come si spiegano queste estinzioni di massa? Su Rai Storia invece del 15 dicembre si è parlato del blocco anticlericale che elesse il sindaco Nathan più di un secolo fa a Roma. Il Corriere della Sera dell'8 dicembre, Pinelli, riavvolgere il nastro. Con una grande illustrazione, Pinelli è stato assassinato, Valpreda è innocente. E è l'occasione per ricordare come è avvenuto questo assurdo assassinio, no? È un omicidio di Stato. Non avendo in mano niente contro gli anarchici, loro torchiarono il povero Pinelli fino a che lo fecero morire. Poi, per evitare lo scandalo, simularono il suicidio. Sulla Repubblica del 9 dicembre 2021, il giuramento laico del cancelliere Scholz in Germania. Scholz è tornato in Parlamento per il giuramento e ha voluto omettere da ateo la frase "che Dio mi aiuti". Passiamo al prete di Prato, no? Sesso e droga con le elemosine. 3 anni e 8 mesi al parroco di Prato. Patteggia la pena e andrà ai servizi sociali. Il prete ha ammesso la sua dipendenza dalla droga e di aver speso 180.000 euro sottratti agli ingenui cattolici per organizzare party a sfondo sessuale. Poi una strana notizia da Vicenza: assale il frate, è indemoniata. Esorcismo di 9 ore tra i fedeli. Bah, fanatismo cattolico. Su Rai Storia del 9 dicembre alle 6 del mattino si è parlato del golpe borghese, ricordiamo questo Junio Valerio Borghese, e non a caso veniva da una famiglia legatissima al Vaticano, che il Vaticano è covo della destra clericale, è sempre stato e sempre sarà al centro di tutte le congiure contro la democrazia in Italia. Dal Corriere della Sera del 12 dicembre 2021, pagina 25. Così il Vaticano promise di rivelare dove era il corpo di Emanuela Orlandi, figlia del postino della Santa Sede. L'ex magistrato Capaldo denuncia anche le connivenze della Chiesa con la banda della Magliana. Dalla Spagna una notizia che ha dell'incredibile, da elmundo.es. Shock per la morte improvvisa del 43enne cura torero di Coria. Era un prete pazzo che effettivamente in tonaca andava a fare le corride, lui personalmente, il cura torero. Da il settimanale anticlericale Cronaca Vera del 7 dicembre, clero criminale. Il clero locale coinvolto nell'inchiesta. Nuove indagini su un brutale assassinio di Chiavari avvenuto un po' di anni fa. Il filo crocifissi Berlusconi al Quirinale, no grazie, un bel articolo del Fatto Quotidiano che ne denuncia le connivenze con la criminalità organizzata. Anche nel Varesotto si è data notizia, droga e festini hot, 3 anni e 8 mesi al parroco di Prato, prealpina dell'8 dicembre. Poi sul Quotidiano Nazionale del 7 dicembre una foto che pochi hanno messo, e inciampa sulla scaletta, piccolo inciampo prima del volo, e non è una metafora. Il Papa infatti, salendo gli ultimi gradini della scaletta che da Atene lo ha riportato in Italia, ha perso l'equilibrio e si è salvato solo attaccandosi non al rosario ma alla spalletta della scaletta. L'addio dopo le voci su una love story, caso Upetit. L'arcivescovo di Parigi che si è dimesso per una sua love story erotica con una signora avvenente. Dalla Valcamonica, dal quotidiano periodico Valcamonica del 2 dicembre, si parla ancora della croce di Wojtyla, che invece di procurare miracoli ha ucciso uno dei fedeli che erano accorsi ad adorarla. Infatti è crollata qualche anno fa. La croce che uccise Marco, un disabile della zona, è crollata perché in pessime condizioni. Il crollo della croce di Papa Wojtyla è avvenuto a causa del pessimo stato di conservazione del legno. Così sottolinea la sentenza della Cassazione che conferma le condanne contro i responsabili di questo assassinio. Sulle disgrazie clericali abbiamo poi il Mattino di Padova. E torna sul caso del prete che disponeva addirittura di 480.000 euro, altro che come ha preso tutti questi soldi, che è notorio che i parroci hanno uno stipendio di 1.000 euro al mese circa, non si sa. Fatto sta che comunque dei furbacchioni l'hanno circuito e gli hanno fregato 480.000 euro. Abbiamo poi dal mio libretto, piccolo notiziario di terminologia atea anticlericale, leggiamo qualche parola significativa. Laicato di sacrestia è lo strumento operativo del clero cattolico, impedisce anche solo di formulare il più piccolo dubbio sulla necessità di rivedere certe posizioni della Chiesa di fronte alla società italiana. Laicità, tentativo di fondare il vero sul reale, mentre la religione cerca di fondare il reale sul vero, tra virgolette, che le sarebbe stato rivelato, tra virgolette. Laicismo, laicismo atteggiamento ideologico e pratico che, opponendosi all'ingerenza del clero nella vita civile e a ogni forma di clericalismo e di confessionalismo, afferma l'indipendenza del pensiero e l'autonomia dello Stato dall'autorità della Chiesa. Laico. Laico è chi fa professione di laicismo, chi si dichiara indipendente da ogni forma di dogmatismo confessionale. Benissimo, arrivederci alla prossima puntata.